action begins. Each day climbs a line for the half dozen limbs. Zardins Magnetics, il giovedì 6 gennaio 2022, fra Dolcino e dintorni. Letture da Abdullah Öcalan, Oltre lo Stato, il potere e la violenza. Gérard de Sède, 700 anni di rivolte occitane. Tavo Burat, Fra Dolcino e Margherita, tra messianesimo egualitario e resistenza montanara. A cura dell'Assemblea Permanente contro il carcere e la repressione. Yeah. La società feudale e statalista, il periodo di maturazione della schiavitù. Dobbiamo osservare lo Stato nella storia in due modi diversi, il primo come istituzione e l'altro come atteggiamento mentale. Definizioni dello Stato che partono dalla concezione che gli Stati nascono e muoiono, che vengono velocemente fondati e abbattuti per poi essere costruiti di nuovo da una classe o da altri gruppi, che gli Stati poggiano su sistemi concettuali, religiosi o nazionali, non ci avvicinano a questo fenomeno, ma al contrario lo offuscano, lo strappano dal suo contesto. Sarebbe invece più corretto e chiaro considerare lo Stato un'istituzione sociale permanente con un sistema concettuale di base. Fin dalla sua nascita lo Stato si è diffuso e diversificato anche se la sua essenza è rimasta sempre la stessa, ma soprattutto lo Stato ha continuato ad esistere ininterrottamente, non ha smesso di esistere per un secondo. Se ci fossero state anche solo pochissime interruzioni, ciò avrebbe sicuramente portato al suo annientamento, similmente a ciò che avviene nella separazione dell'anima dal corpo. Il corpo non può continuare a esistere se l'anima lo abbandona, e questa non può ritornare nel corpo. Allo stesso modo possiamo considerare lo Stato un essere vivente. Per quanto riguarda la sua varietà e le sue dimensioni, può essere paragonato a una specie. Come per le specie animali e vegetali, può essere composto in molti modi diversi e in dimensioni diverse, anche se le sue caratteristiche essenziali rimangono le stesse. Questa possibile spiegazione non è in contrasto col fatto che alcune delle sue modalità sono migliori, altre peggiori. Mentre Lenin propagandava lo Stato proletario al posto dello Stato borghese, considerava questa una definizione giusta e sincera. Non esiste però una versione proletaria dello Stato come forma sociale. Molti, a partire da Spartaco, l'hanno tentata, ma nessuno ci è riuscito. Lo stesso esperimento sovietico non è riuscito a evitare il suo fallimento, nonostante riguardasse un terzo del mondo. La causa principale è il fatto che la forma statale rappresenta fondamentalmente il modo di vivere dei gruppi e delle classi opprimenti e sfruttatrici. Non può essere la forma liberale ed egualitaria dei gruppi e delle classi oppresse e sfruttate. Libertà e uguaglianza sono in contraddizione sia con la forma che con l'essenza dello Stato. Da quanto risulta da numerosi dati, altre regioni del mondo adottarono questo modello, incluse la Cina e il Sud America. Naturalmente lo arricchirono con materiale locale, ma la fonte di ispirazione per le idee e le istituzioni fu prevalentemente lo Stato sacerdotale sumero. La scienza concorda nel ritenere che questo modello fungesse direttamente e indirettamente da ispirazione divina. Spetta agli storici esaminare in maniera scientifica le peculiarità di questo processo. Il modello dello Stato primitivo schiavista, che parte dal Regno Sumerico e dall'Egitto, per continuare poi con gli Ittiti, i Medi, in Iran, India, Cina, Grecia, Roma, con gli Aztechi e altri piccoli stati, raggiunge la sua piena maturità nella forma feudale, dove cresce, si moltiplica e, per rimanere nell'esempio della specie, si suddivide in diverse tipologie. Fino a quel punto lo Stato ha cercato di insinuarsi negli angoli più remoti della società naturale, ha occupato molti settori nuovi e sviluppato la sottomissione e lo sfruttamento al punto di farle diventare una raffinata arte. Le cosiddette arte della politica e arte bellica significano in realtà l'uccisione sistematica degli uomini, la loro sottomissione e sfruttamento in tutti i modi possibili. Per dare una legittimità a queste arti, si fa ricorso alle arti della mitologia e delle leggende, in parte al contenuto delle sacre scritture, a scultura, pittura, musica e altre arti. Indubbiamente queste non sono state create dalla classe schiavista, ma si sa che quest'ultima sviluppò una particolare abilità nello sfruttarle per i propri fini, e cioè l'arte di ribaltare completamente e fin dalle fondamenta la mentalità dell'uomo. A tal fine vengono impiegati i principali strumenti materiali e immateriali che l'umanità si è creata con grandi fatiche nel corso dei millenni. Il sistema dello schiavitù non apporta alcun contributo positivo, creativo, ma distorce e travisa. Voglio sottolineare come spesso questo sia stato interpretato in maniera errata, persino in nome della libertà e dell'uguaglianza. Possiamo riassumere brevemente cosa sia l'istituzione statale quando approda al gradino dello stato feudale. I re dei Sumeri ed Egizi, alla loro morte, facevano seppellire vivi con sé migliaia di servi e serve che dovevano continuare a stare al servizio dei propri re nell'aldilà. Per la costruzione delle loro tombe sacrificarono centinaia di migliaia di uomini, costretti a lavorare fino alla morte. Mentre a un ristretto gruppo di potenti veniva preparato un posto in paradiso, tutti gli altri erano trattati peggio delle bestie. Il programma politico prevedeva lo sterminio di ogni struttura sociale, come i clan o le tribù, che si opponesse alla schiavitù. Costruire torri e mura con teschi umani era considerato un atto eroico. Per la prima volta nella società umana viene così inventata l'arte delle uccisioni pianificate. La donna viene rinchiusa in una gabbia e si incatenano tutti i sogni naturali dei bambini. Agli uomini che vogliono vivere liberi rimangono solo i deserti, le montagne e le foreste. Non solo la forza lavoro di schiavi e schiave viene trasformata in uno strumento produttivo economico, ma anche i loro corpi. Grazie all'intelligenza artificiale si crea una straordinaria mitologia fondata sulle menzogne. Come se la forza pura e lo sfruttamento materiale non bastassero, i dominatori usano sul piano intellettuale la pressione ideale del mondo degli dèi come elemento centrale della fede e del culto. Si arrogano il diritto quasi esclusivo di elogiare e adulare la morale e l'arte. Contrariamente alla concezione di un universo animato, riempiono l'ambiente naturale e la società umana di dei senza anima e castigatori, la cui dimora si trova sottoterra o in cielo. Se per i dominatori il bisogno è impensabile, tutti gli altri gruppi soffrono incessantemente la fame e le malattie. Persino per divertimento, i giochi si basano sull'uccisione di esseri umani. Si potrebbe continuare con altri esempi. Conosciamo gli stati schiavisti dalle loro tradizioni orali che si sono tramandate. Le loro rovine sono ancora davanti ai nostri occhi. Tutti gli stati, grandi e piccoli, si sono mossi in questa cornice in ogni epoca e, qualora necessario, hanno apportato il loro contributo nell'arte della politica e nell'arte della guerra. Se solo si considera il gran numero delle imprese degli imperi romano e bizantino, ci si rende conto di quanto è difficile per un uomo comune trovare un punto di accordo tra il panorama di orrori che ne deriva con la propria coscienza e la propria ragione. Dobbiamo tuttavia guardare la verità negli occhi, descrivere lo stato schiavista con l'immagine del Leviatano, tratta dalle sacre scritture, colpisce nel segno. Nel nostro caso non è necessario analizzare in dettaglio il crollo di questa forma sociale dello Stato. Sappiamo comunque che fu fortemente indebolita dalla resistenza e dagli attacchi esterni da parte di tribù, di cosiddetti barbari, che portavano ancora in sé le caratteristiche della società naturale. I centri della civiltà schiavista nella Cina orientale, in India e Iran, in entrambi gli imperi romani in Occidente, non riuscirono a mantenere a lungo questa loro forma esistenziale a causa della resistenza e degli attacchi da parte di diverse tribù e popoli, tra cui i Germani, gli Unni e gli Sciiti al nord, gli Arabi e i Berberi al sud. Chiamare barbari questi gruppi è proprio del linguaggio degli schiavisti. In realtà sarebbe più giusto definirli forze rivoluzionarie, responsabili dello sviluppo che porterà una maggiore libertà e maggiore uguaglianza. È importante distinguere dalla massa i capi tribali, che emulavano i signori schiavisti. Il sistema sociale della schiavitù fu minato nel profondo e bloccato dalle correnti religiose gnostiche, prime tra tutte il cristianesimo, il manicheismo e l'islam, il cui fondamento si trovava prevalentemente tra i poveri e coloro che incitavano alla libertà. Non si può dire che questi movimenti aspirassero consapevolmente alla libertà e all'uguaglianza, ma è certo che volevano liberarsi dalla schiavitù. I loro concetti preferiti sono redenzione e redentore. Gesù è anche chiamato il Messia, il liberatore. Mani altro non è che un apostolo della pace e della luce. La parola Islam significa sottomissione alla pace. Le richieste più importanti che determinarono la caduta del sistema erano pace e liberazione. A causa della mentalità del tempo è inevitabile che fossero formulate in maniera religiosa. Si capisce anche perché liberazione e pace furono raggiunte solo in parte. Seguire il modo di vivere democratico nel suo sviluppo storico è uno degli scopi principali della mia analisi. Con l'intrecciarsi di gerarchie, classi, città e stati, il fenomeno sociale ha assunto un carattere contraddittorio. Abbiamo cercato di spiegarlo ricorrendo a tutto quel lasso di tempo che va fino ai Sumeri, nel quale vige una società completamente diversa sotto tutti gli aspetti, dall'economia alla mentalità. Si è poi formata una cricca che, grazie allo strumento Stato, ha sviluppato il proprio sistema attraverso la violenza e la guerra perenni. Appropriarsi delle ricchezze all'interno e dall'esterno diviene l'elemento fondamentale della sua arte della politica. Celebra la guerra con creazioni letterarie e mentali, la mitologia, per far credere a tutte le parti della società che il suo sia un sistema divino, esistente da sempre e per l'eternità. Negli anni compresi tra il 4000 e il 2000 avanti Cristo, vediamo il sorgere di obiezioni e resistenze contro questo sistema, esistito fino ad allora nella sua forma pura. Dapprima i consigli delle città, costituiti dai più autorevoli rappresentanti delle tribù, erano fondati sulla democrazia. Di fronte alla cricca costituita da sacerdoti, re e capi militari, rinunciano poi, non senza opposizioni, a uno stile democratico. Da lungo tempo esisteva un sistema misto di Stato e democrazia. Col passare del tempo, a causa degli spostamenti interni e esterni, sempre più uomini abbandonarono le loro tribù. Molti di loro trovarono un'occupazione nella città, come impiegati amministrativi, soldati o schiavi. Questo processo distrugge l'equilibrio tra Stato e democrazia in favore dei consigli delle città, che già si basano sul sistema tribale. E così, poco alla volta, vengono eliminati. Sviluppi di questo tipo si possono osservare in molti nuovi stati nascenti. Nella battaglia interna, le forze democratiche sono inferiori. Sussiste, tuttavia, anche nello Stato, un certo rapporto di forza tra le tribù, che non può essere completamente eliminato e che è sempre presente, talvolta in maniera forte, altre volte in maniera più debole. Dall'esterno invece il sistema sociale statalista subisce una fortissima pressione. I nomadi si mobilitano contro i sedentari. Queste comunità, che nell'interpretazione greco-romana affiorano per lo più come aggressori barbari, sono da considerarsi piuttosto all'interno di un contesto generale dialettico. La ricchezza all'interno della città, la società sedentaria, è in continuo aumento grazie al lavoro degli schiavi al suo interno e al commercio impari e alla repressione nei confronti del mondo esterno. La città stessa crea le contraddizioni, similmente a quanto accade oggi tra l'imperialismo e la categoria degli stati mantenuti in una condizione di sottosviluppo. Non sono i nomadi che attaccano come dei barbari, ma la città, poiché purtroppo nel nostro sistema concettuale linguistico la città è dominante, questa riesce a presentare se stessa come civilizzata e gli altri invece come selvaggi, che emettono degli strani suoni, barbar, ottenendo in questo modo la propria legittimazione. Possiamo paragonare il grande movimento dei nomadi ai movimenti di liberazione nazionale dei nostri tempi. Nelle società nomadi coesistono allo stesso tempo diverse forme di organizzazione sociale. Possiamo quindi intendere i loro movimenti essenzialmente come un atteggiamento di resistenza da parte di un modo di vivere democratico. Per il resto si deve fare attenzione a chi attacca chi. Poiché gli stati urbani e più tardi gli imperi possiedono gli strumenti di repressione e sfruttamento più forte e sono sempre ideati per la crescita e l'espansione, si trovano oggettivamente nella posizione dell'aggressore. La posizione dei gruppi autoctoni, invece, è caratterizzata dalla difesa e dalla resistenza. In altre parole, possiamo anche parlare dei primi movimenti di liberazione contro la prima schiavitù. La tradizione millenaria di resistenza contro la schiavitù antica e classica ha portato a importanti conquiste in campo intellettuale, politico e sociale. Anche se la storia scritta non menziona espressamente queste conquiste, non ci possono essere dubbi sulla loro esistenza. La cultura si alimenta in grande misura attraverso entrambi questi canali di resistenza, che sono anche la materia principale di tutte le forme di arte. I loro monumenti si sono conservati fino ad oggi nella forma di templi. Se ci sono ancora frammenti di morale sociale, lo dobbiamo proprio a queste tradizioni. Poemi epici immortali, le tradizioni orali dei santi e dei giusti parlano di grandi gesta e azioni umane. È questa tradizione che valorizza la saggezza di uomini che trascorrono decenni negli eremi, come pure di quegli uomini che marciscono in carcere, che vengono crocifissi, che digiunano da asceti cibandosi di un pezzo di pane, olive e datteri e che sentono la sofferenza degli altri uomini, una tradizione che eleva a modello e a rango di scuola la vita in comune e il sistema dei monasteri e con essi l'accumulo del sapere e l'evoluzione dell'arte e dell'artigianato. Ed è sempre questa nobile tradizione che laddove il potere dominante lascia agli uomini solo la scelta tra uccidere o essere uccisi, invita questi ultimi a pensare alla pace, difende la dignità umana e pone l'accento sull'aiuto reciproco, la fratellanza e l'universalismo. Parlare di democrazia e del fenomeno comunale in questi nostri appunti ci può aiutare a comprendere la società dell'Impero Romano. Come tutti i suoi precursori, anche l'Impero Romano alla fine soccombe dopo alcuni secoli di movimenti social-comunali al suo interno. I movimenti alterni di attacco e difesa da parte delle comunità etniche vicine alla società naturale provenienti dal nord. La caduta e quindi la distruzione di Roma alla fine del IV secolo sono, anche se indirettamente, la vittoria in comune della relazione tra l'etnia e la comunità religiosa e la grande vittoria dei popoli e del sistema comunale, anche se il loro rapporto è complicato. Indubbiamente la mentalità e il culto dello statalismo non sono stati distrutti. Vediamo di nuovo che il potere di Roma non sopporta di rimanere sconfitto per molto tempo ancora. Alla catena vengono aggiunte nuove maglie, continua a esistere e diventa più lunga. In Oriente continua a esistere in una veste nuova come Bisanzio, sul suolo vergine dell'Europa come la Francia di Carlo il Grande e come il Sacro Romano Impero. Roma fu distrutta principalmente dalle tribù germaniche che avevano le loro radici nella cultura agraria indogermanica. Anche gli Unni, provenienti dall'Asia centrale, fecero tremare per secoli l'impero. Neutralizzare la potente macchina militare di Roma senza la forza delle etnie sarebbe stato impensabile. I comunalisti democratici non possono parlare di triste caduta della civiltà romana a causa dell'assalto dei barbari, non corrisponderebbe alla realtà. Se osserviamo la catena degli imperatori, comprendiamo quanto terrificante fosse il sistema di potere politico-militare. Il fatto che i barbari, essenzialmente le forze di liberazione popolare, fecero a pezzi questo potere è da considerare uno dei passi più grandi verso la liberazione, indipendentemente da cosa possano obiettare gli altri. Nella caduta di Roma si evidenzia nuovamente che cosa in fondo sia determinante per la storia. Da un lato la lotta tra chi pone la guerra e il potere a fondamento delle strutture politiche, sociali, economiche e morali. Dall'altro chi si oppone a tutto ciò e persevera nella democrazia e una vita libera, egualitaria e comunale. Se si osserva attentamente come dietro la pace e stabilità si nasconda sempre questa guerra, si può meglio comprendere questa realtà sociale. La teologia cristiana aveva raggiunto l'apice nel 1250 con la scolastica, giungendo a una sintesi con la filosofia di Aristotele. Potremmo anche parlare della forma più sviluppata della metafisica. L'uomo era stato completamente dimenticato, era stato talmente allontanato dalla vita da non comparire neppure come semplice marionetta di Dio. Sulla base della religione si era arrivati a una forma estrema di socialità che l'uomo, per la sua caratteristica naturale, non può più tollerare, poiché non in accordo con la vita reale. I tentativi degli eretici, delle varie confessioni divergenti, delle streghe, cioè le donne della società naturale non cristianizzata, rappresentano la resistenza dello spirito indipendente contro il dogmatismo cristiano. In questo contesto possiamo inserire persino i tentativi scientifici degli alchimisti di trasformare in oro gli elementi naturali. Se si osserva il sistema capitalista da una prospettiva più ampia e del tutto teorica, si vede la totalità degli elementi sfruttatori che si sono intrufolati nella società umana. Lo sfruttamento può essere visto come il tentativo di trarre proprio vantaggio da tutto. È la grande scuola di sfruttare qualsiasi occasione si presenti. Obiettivo sono soprattutto i valori materiali, ma può rivolgersi anche a valori ideali, quali il pensiero, la fede e l'arte, purché se ne possa ricavare un vantaggio materiale. La filosofia alla base del capitalismo consiste nel trarre profitto da tutti i fenomeni sociali. Tutto ciò che capita sotto mano, siano essi valori comunali che valori dello stato gerarchico, viene sfruttato indifferentemente. Per questo motivo lo abbiamo paragonato a un lupo affamato o a un cancro. Si può anche pensare a un tarlo in un albero. Finché il lupo non avrà assalito l'intero gregge, il cancro non si sarà diffuso in tutto il corpo, il tarlo non avrà rosicchiato l'albero al punto da farlo cadere, potranno essere tenuti sotto controllo e continuare ad esistere. Non appena però il capitalismo diventa il sistema dominante ed assume forme estreme, come è nella sua natura, allora raggiunge la sua fase più pericolosa. Si parla quindi di fascismo e totalitarismo. In questa situazione ha luogo nella società una guerra continua, non solo guerre ufficiali, globali, militari, ma guerre ancora più perfide che si svolgono all'interno di tutte le istituzioni e relazioni sociali. Inizia ad avere il sopravvento esattamente la logica dell'uomo lupo per l'altro uomo. La guerra si allarga alle mogli, ai figli e all'intero ambiente naturale. La bomba atomica è l'espressione simbolica di questa realtà. L'intera società viene lentamente ma definitivamente nuclearizzata a partire dal suo interno. Lo Stato nazionale in particolare, col suo profitto magico, è in grado di assicurarsi un profitto estremo e trasformare quindi in una corrente religiosa il nazionalismo, l'ideologia dello Stato nazionale, le cui dimensioni non potranno mai essere eguagliate da alcuna dottrina filosofica o religiosa, né fede religiosa. Rende praticamente ciechi tutti gli occhi e tutti i cuori. Nessun valore sembra aver senso al di fuori dei simboli estremi del nazionale. La sacralità è insita soltanto negli elementi esagerati dei valori nazionali. Dall'altro lato si cerca di legare gli individui come cittadini alla cittadinanza, cittadinanza intesa in senso medievale. La cittadinanza è un concetto da analizzare molto attentamente. Di fatto ha preso il posto delle relazioni schiaviste e delle servitù della gleba, che nell'antichità e nel Medioevo impersonavano il legame con lo Stato. Sono state trasformate in una sorta di relazione schiavista nei confronti della borghesia, cioè dello Stato. La cittadinanza prepara la forma moderna degli schiavi del sistema, e così gli individui, per la borghesia, diventano degli individui utili, con tutta una serie di doveri, servizio militare obbligatorio e tasse innanzitutto. Mettono al mondo i figli che servono allo Stato e alla classe dominante, quindi Fare figli diventa un affare economicamente favorevole per la borghesia. Per quanto si possa parlare di diritti economici, sociali, politici e culturali, è comunque soprattutto la classe dominante che gode di questi diritti. Il monopolio della scienza e dell'arte determina il rafforzamento della sovranità e dello sfruttamento, permette di formare l'individuo a proprio piacimento e approfittare di esso. Il capitalismo non si limita solo alla trasformazione della struttura mentale e dei paradigmi fondamentali secondo i propri principi, ma mette all'individuo i paraocchi e un cuore di pietra. Gli uomini sono così ridotti a esistenze di vedute limitate, orientate al guadagno, astratte, simili a robot. Al posto della vivace ammirazione dell'uomo e del mondo, tutto viene avvolto da un'atmosfera grigia, priva di vita, profana, poco stimolante e per niente interessante, nervosa e spiacevole. La parte della società che lavora dietro compenso è degradata alla condizione di galline ovaiole. Per deporre le uova, l'unico scopo della vita, vengono addomesticate col mangime, il loro compenso. L'uomo patriarcale non vuole riconoscere la donna in alcun modo. Ricorre alle chiacchiere ingannevoli sull'amore, una delle sue armi più importanti, per occultare questa situazione. Il fatto che per l'uomo patriarcale l'amore sia uguale alla menzogna significa dare spazio alla sua mancanza di rispetto subliminale, alla cecità della sua coscienza e alla cieca impulsività, consolidandole. Il fatto che la donna venga costretta ad accettarlo dipende da quanto sia inerme di fronte a questa pressione. È esclusa a tal punto dalle condizioni materiali e ideali della vita da accettare inerme le offese più sconce e le aggressioni dell'uomo come se fossero un suo diritto naturale. Rimango sempre stupito da come la donna possa accettare di vivere in questo stato. Quando un macellaio porta una bestia al macello, la bestia sente istintivamente che sta per essere ammazzata e trema in tutto il corpo. Il comportamento della donna di fronte all'uomo mi ricorda sempre questo tremito. L'uomo non sta bene se la donna di fronte a lui non trema, poiché questa è la condizione più importante per il dominio. Il macellaio uccide una volta, lui invece uccide per tutta la vita. Dobbiamo far luce su questa realtà, occultarla con canzoni d'amore è assolutamente meschino. Ciò che viene detto sull'amore è quanto di più insensato ci sia nella civiltà. Quello che un uomo non riesce mai a fare e che non vuole nemmeno fare è avvicinarsi a una donna con semplice naturalezza. Considererei l'uomo che si comportasse in questo modo un vero eroe. La problematica non nasce da una semplice debolezza o da una diversità biologica tra i sessi. La sua origine si trova nella società gerarchico-statalista che ha posizionato la donna sul gradino più basso della stratificazione sociale. Il cosiddetto onore della famiglia o onore del matrimonio di fatto non significa altro che soffrire costantemente sotto il piccolo imperatore. Come il grande imperatore che se accade qualcosa alla sua proprietà statale lo considera un casus belli, allo stesso modo il piccolo imperatore, se succede qualcosa a sua moglie, che annovera tra i suoi averi, lo considera un grande attacco al suo onore e quindi un motivo per lottare. È ancora più straordinario come la donna venga svuotata completamente dell'anima e trasformata esteriormente in un uccello da gabbia estremamente femminile, ingioiellato e con una bella voce. Voce e trucco non hanno quasi più niente in comune con la donna naturale e si fondano su una forte abnegazione che ha un effetto devastante per la personalità. In particolare, la caccia alle sottane priva la donna della sua personalità. È un'invenzione dell'uomo che pur perseverando in essa non si fa alcuno scrupolo nell'accusare la donna di essere adultera per natura. Sebbene il sistema stesso sia responsabile dell'utilizzo della donna come oggetto pubblicitario da esporre, le si attribuisce questa peculiarità come parte della sua essenza naturale. La dignità della donna tocca col capitalismo il suo punto più basso. Con l'identità della donna si gettano nella spazzatura allo stesso tempo anche i valori della società comunale. lo esige la logica del sistema, che è in questo molto competente. La natura della donna è molto vicina ai valori della società comunale, poiché la sua intelligenza è più sensibile nei confronti della natura e più legata alla realtà, in lei prevale l'intelligenza emotiva, e poiché l'intelligenza analitica è più teorica, ha poco a che fare con la vita. Il fatto che nell'uomo si sia sviluppata così fortemente l'intelligenza analitica è collegato al carattere astuto e repressivo della sua posizione sociale. Il sistema getta la sua ombra anche sul mondo dei bambini. Il mondo dei sogni, nel quale vivono i bambini, è diametralmente opposto al mondo dei freddi calcoli. Bambini e capitalismo non vanno d'accordo. Gli anziani sono come bambini invecchiati. I saggi, che una volta erano rispettati e considerati sacri, per la produzione capitalista diventano un peso, un oggetto superfluo. I bambini si possono usare ancora per qualcosa, quando diventano grandi. I vecchi invece non hanno alcun valore, perché prossimi alla morte. Nella sua relazione con gli anziani, la società mostra quanto si sia allontanata dalla sublimità e dalla santità, relegandoli in ospizi. Il sistema mostra il suo peggior volto crudele e insensibile. Già la problematica della vecchiaia nelle sue diverse dimensioni solleva domande sufficienti a dimostrare quanto il sistema sia superfluo per la società. La la la la, ultimi fuochi di resistenza. Nella storia di tutte le comunità ci sono dei momenti storici privilegiati. Per la comunità occitana sono stati tali il periodo visigotico e il periodo cataro. Per chi cerchi di comprendere come si è modellata nelle sue singolarità la civiltà doc, essi sono due momenti di riferimento. Tra tutti i popoli che i greci e i romani chiamavano barbari, vale a dire semplicemente stranieri, quello dei Goti era di gran lunga il più potente e il più civilizzato. Esso aveva fondato tra Baltico e Mar Nero un vasto impero. A Efeso, a Bisanzio, a Atene, esso si era impregnato della cultura ellenistica. Infine, esso era il solo che fosse cristiano, sebbene professasse l'arianesimo, considerato come eretico dal papato. Quando i Goti, cacciati dall'Europa centrale a causa dell'irruzione degli Unni, bussarono rudemente alle porte dell'impero romano in sfacelo, essi furono accolti a braccia aperte da tutti gli oppressi. Fu con l'aiuto degli schiavi insorti che il re visigoto Alarico si impadronì di Roma nel 410. Nel 413 il suo successore Ataulfo si fece cedere il Narbonese dall'imperatore Onorio. Nel 415 Vallia fu già alla testa di un regno, a cui diede Tolosa come capitale. Sotto Teodorico II il regno di Tolosa si estese da una parte e dall'altra dei Pirenei, da Narbonne a Bordeaux e a Barcellona. Sotto Eurico il Grande esso comprendeva tutta la metà meridionale della Gallia fino alla Loira e tutta la penisola iberica, considerata come una semplice provincia. Tolosa costituiva il cardine di questo impero. È l'epoca in cui, come ha scritto Ferdinand Loth nel suo La fine del mondo antico e l'inizio del Medioevo, sembra che il mondo antico in Occidente si accinga a perseguire il proprio destino sotto il protettorato della più civilizzata delle nazioni, il grande popolo dei Goti. Ma nel 507 la vittoria che i franchi di Clodoveo, sostenuti dalla Chiesa, riportarono su Alarico II a Vuillè, ridusse il territorio dei Visigoti a nord dei Pirenei, alla Settimania, approssimativamente gli attuali dipartimenti dei Pirenei orientali, dell'Aude, dell'Hérault e del Gard. Questa amputazione spostò verso la Spagna il centro di gravità del regno, che a metà del VI secolo fece di Toledo la sua nuova capitale. In questi nuovi limiti i Visigoti si sarebbero mantenuti sino all'irruzione degli Arabi nell'VIII secolo. Sovente misconosciuto, l'apporto dei tre secoli Visigoti alla civiltà occitana fu considerevole. Fu l'apporto di un popolo giovane e dinamico che rilevò le istituzioni romane in decadenza, imprimendo loro la propria impronta. La vita urbana si rianimò, il commercio con l'Oriente ridivenne prospero e soprattutto la condizione delle persone fu migliore che sotto l'impero romano. I servi della gleba potevano disporre tramite testamento della metà dei loro beni, diritto che l'Europa feudale rifiuterà loro fino al XIII secolo. Le donne godevano di uno statuto liberale, potevano comparire da sole davanti alla giustizia, potevano chiedere il divorzio e partecipare spesso ai dibattiti. La tolleranza religiosa si manifestava attraverso libere controversie tra ariani e cattolici. La medicina, l'architettura, il diritto e la letteratura presero un nuovo slancio. L'austerità dei costumi contrastava con la corruzione romana, ma non escludeva un certo gusto per l'ostentazione, di cui è testimone tra l'altro lo splendore dell'orificeria visigota. Infine si vide nascere una coscienza nazionale. In tempo di guerra tutti erano obbligati a svolgere il servizio militare, compresi i membri del clero. L'era visigota ha lasciato molte tracce in Occitania, a cominciare dai nomi di luogo e di persona, fino alle vestigie architettoniche. Nell'XI secolo si incontravano ancora mercanti goti che praticavano il commercio del sale e nel XVII secolo i capitolati di Tolosa brandirono contro Luigi XIV le franchigie ereditate dai buoni re goti. Ma soprattutto nel regno visigoto di Tolosa si videro già delinearsi molti dei tratti che nel XII e XIII secolo costituiranno l'originalità dell'Occitania catara. le tendenze egualitarie che saranno riassunte dalla parola Bharatj, un'uguaglianza fondata sul merito e sulla comune cultura, al di là delle differenze di rango sociale, la tolleranza in materia religiosa, lo slancio culturale, il patriottismo su scala dell'insieme occitano catalano. Allo stesso modo, la caduta di questo regno eretico, sotto i colpi congiunti della Chiesa romana e degli invasori venuti dal nord, prefigurò la tragica fine dell'Occitania medievale. Nel XIII secolo, quando su di essa si abbatterono l'armata dei crociati e quella di Luigi IX, l'Occitania era profondamente diversa non solo dal Regno di Francia, ma anche da quasi tutti gli altri paesi europei. Essa se ne distingueva innanzitutto per le strutture sociali. Lo slancio precoce delle città e del commercio vi aveva creato un rapporto di forze particolare tra contadini, borghesi e nobili, dando a ciascuna di queste classi uno statuto, un modo di vita e un'ideologia che non avevano altrove. Mentre quasi ovunque in Europa la maggior parte dei contadini liberi, per proteggersi dalle continue invasioni, aveva dovuto sottomettersi ai vincoli della servitù della gleba, cedendo le proprie terre alla nobiltà o al clero, in Occitania, al contrario, la metà dei contadini era rimasta libera e proprietaria di alloti, ossia di terre esenti da canoni feudali. Nell'altra metà i servi della gleba non erano molto numerosi e la loro condizione era comunque migliore che nei paesi retti dal diritto consuetudinario. Il diritto scritto ereditato da Roma e dai Visigoti donava infatti alla servitù un carattere contrattuale che limitava l'arbitrio signorile. L'ingresso nella servitù della gleba doveva essere volontario e avvenire davanti a testimoni. A coloro che erano stati asserviti con la forza veniva restituita la libertà. Un servo non poteva essere né separato dalla propria famiglia né espulso dalla terra che coltivava. In alcuni posti, come a Mirepoix, occorreva l'autorizzazione della comunità degli abitanti non solo per procurarsi un servo della gleba, ma anche per diventarlo. Molti di questi contadini, sia proprietari che locatari, erano diventati abbastanza ricchi da stabilirsi nelle città antiche come Tolosa, Béziers, Carcassonne, Narbonne o in quelle create di recente come Montpellier, Lavaux, Alais. Qui, a partire dall'inizio del XII secolo, si costituirono una borghesia artigianale, mercantile e ben presto capitalista, potente e combattiva. Anche la nobiltà presenta delle caratteristiche particolari. Il diritto di primogenitura non esisteva. Alla morte di un signore, il suo feudo e i suoi privilegi venivano trasmessi in modo indiviso agli eredi di entrambi i sessi. Ciò aveva conseguenze importanti. Da una parte, il potere feudale disperso tra una moltitudine di individui gravava meno sui contadini. Dall'altra, poiché era raro che tutti gli eredi potessero rimanere sui propri domini, una buona parte della nobiltà si urbanizzava, in tutti i sensi del termine, partecipando così allo slancio economico e intellettuale delle città. L'esistenza di una massa di contadini liberi e di una borghesia forte, di fronte a un potere nobiliare disperso, impedì al sistema feudale che si era impiantato nel resto d'Europa di trionfare in Occitania. Qui, ben più che altrove, le città riuscirono a strappare ai signori delle carte di franchigia, sovente peraltro, la nobiltà urbana promulgò spontaneamente tali statuti per attirare nuovi immigrati e così promuovere l'attività economica. La libertà diveniva così la condizione normale dei cittadini. Tali conquiste indubbiamente si iscrissero nell'ambito del movimento comunale che in questo periodo interessò diversi paesi d'Europa con tutt'altra ampiezza. I comuni in genere non ebbero che poteri assai limitati, sottomessi all'arbitraria tutela dei signori laici o ecclesiastici. In Occitania, al contrario, i magistrati municipali, a seconda delle regioni denominati capitoli, consoli, giurati, riuscirono spesso a strappare la gran parte dei poteri fino ad allora riservati alla nobiltà, così che la maggior parte delle città conobbe un'ampia autonomia, che poteva arrivare fino all'autogoverno. Ad esempio Nîmes, a partire dal 1124, fu amministrata da consoli eletti con suffragio universale. A Tolosa e nel territorio circostante, a partire dal 1152, i conti delegarono più o meno di buon grado la loro autorità ai capitoli. Scelti in tutte le classi sociali, costoro amministravano la giustizia, arruolavano le milizie armate, decidevano la guerra e la pace, si intitolavano orgogliosamente capi dei nobili. A differenza di certe città italiane, Tolosa era una vera repubblica. Da questa combinazione di fattori sorse una civiltà originale, da ogni punto di vista decisamente avanti sui tempi. Una civiltà aperta, il primo dei suoi tratti distintivi era l'osmosi tra le diverse classi della società. I divari che contano non parevano più situarsi tra una nobiltà del sangue blu e la plebe delle campagne, esistevano persino in certi posti dei cavalieri servi. D'altra parte, nelle città, nobiltà e borghesia tendevano a fondersi in un patriziato che presentava già certi tratti di una classe capitalista, e a Tolosa, a partire dal 1192, e sotto l'egida di Raimondo VI, che fu fondata la prima società per azioni conosciuta in Europa. Non ci sono più barriere invalicabili tra gli autoctoni e gli stranieri per razza o per religione. Il conte di Tolosa fu il cognato di due sultani musulmani. In parecchie città la sinagoga si ergeva accanto alla chiesa e non era raro che degli ebrei fossero capitoli o consoli. Infine, la società occitana fa eccezione, in quei secoli di misoginia, per il ruolo rilevante che vi ricoprono le donne, soprattutto nelle classi dirigenti. Considerata al pari degli uomini in tutti i campi, la donna amministra da sé i propri beni, partecipa agli affari pubblici, concorre al fiorire della cultura. Si può dire che è l'Occitania ad aver imposto a tutto l'Occidente una nuova immagine della donna. La sola classe sociale che possiede qui le stesse strutture che altrove è la feudalità ecclesiastica. Grande potenza fondiaria e fiscale, essa lotta con accanimento contro il movimento dei comuni ed è in costante conflitto sia con la borghesia, che non può emanciparsi che a sue spese, sia con i contadini che cercano di sottrarsi alla dima, e anche con buona parte dei nobili laici, i quali le contendono le sue terre e le sue imposte che ne trae. Ma l'originalità delle strutture sociali nell'Occitania del XII e XIII secolo non è ancora tutto. Vi si riconoscono anche dei lineamenti di strutture nazionali. Essi si manifestano non soltanto nella condivisione della cultura che dall'Aquitania alla Provenza travalica la diversità delle cornici politiche, ma anche nello slittamento dal concetto di feudo a quello del territorio organizzato da una città capitale. Questa evoluzione fu particolarmente sviluppata nell'Occitania centrale, dove le contee di Tolosa e di Foix e la vicecontea di Carcassonne e Béziers formavano, dalla Garonne fin oltre il Rodano, un insieme che godeva di fatto dell'indipendenza. Si vide persino nascere, all'inizio del XIII secolo, il progetto di un grande stato occitano-aragonese che avrebbe resuscitato in nuova forma il regno visigoto. Così come sottolineato molto prima che da altri, da Friedrich Engels, in un dibattito sulla Polonia alla Dieta di Francoforte, la nazionalità meridionale francese differiva nel Medioevo dalla nazionalità del Nord, allo stesso modo in cui oggi differiscono quella polacca e quella russa. Questa nazionalità meridionale non aveva solamente raggiunto uno stupefacente sviluppo, essa si collocava in cima allo sviluppo in Europa. Prima delle altre nazioni, essa disponeva di una lingua ben strutturata. La sua poesia offriva a tutti i popoli che parlavano lingue romanze, e persino ai tedeschi e agli inglesi, un modello allora ineguagliato. Nell'elaborazione dell'ideale cavalleresco, essa rivaleggiava con i castigliani, con i baroni del nord e con gli inglesi. Per l'industria e il commercio, essa non era da meno degli italiani. In essa non era solo una fase della realtà medievale che perveniva a pienezza, era un frammento splendente dell'antichità greca che penetrava in profondità nel Medioevo. La nazione meridionale francese non ha soltanto reso grandi servigi alla famiglia dei popoli europei, il suo apporto è stato autenticamente illimitato. Il 16 marzo 1244, dopo 10 mesi d'assedio, l'armata del re di Francia Luigi IX espugnò la roccaforte di Montségur, il nido delle aquile, nella zona pirenaica della Riege. Al suo seguito c'erano anche gli inquisitori Ferrier e Duranti. La sera stessa, oltre 200 catari vennero arsi vivi ai piedi della fortezza che alcuni di loro avevano difeso armi in pugno. ma che la maggior parte aveva semplicemente usato per rifugiarvisi. Uomini, donne e bambini avevano firmato la loro condanna a morte al grido «Pusle cremar che renunciar, meglio bruciare che abiurare». Tutti si avviarono al rogo cantando i loro inni e tenendosi per mano. Da allora il destino della lingua d'oca fu segnato, annessa nel 1271 alla corona di Francia, fu così ridotta al rango di provincia, termine che proviene dal latino e che designa senza ambiguità un paese in precedenza sconfitto. Ma nel XIII secolo lo Stato francese non era ancora che un abbozzo. Le sue capacità di intervento erano ancora limitate e il suo potere reale era molto più debole di quello dei territori su cui pretendeva di esercitarlo, territori ancora lontani e tenacemente trincerati nella loro lingua, nella loro cultura e nelle loro credenze religiose. Il trono di Francia, quindi, che per conquistare la lingua d'oca aveva unito le proprie forze a quelle della Chiesa, dovette affidare più che altro a quest'ultima il compito di estirparvi le anime ribelli. Per farlo, la Chiesa aveva forgiato una temibile arma, l'Inquisizione. Nata espressamente con l'obiettivo di cercare i catari e consegnarli alle punizioni del potere civile, l'Inquisizione era stata creata nel 1184 su decreto del Concilio di Verona e fu proprio in Occitania, 14 anni più tardi, che il neoeletto Papa Innocenzo III inviò i due primi inquisitori, i monaci cistercensi Guido e Raniero. Fino ad allora, la lotta contro le varie forme di eresia era stata retaggio esclusivo dei vescovi e inizialmente anche gli inquisitori furono presentati come semplici ausiliari provvisoriamente a disposizione della giustizia episcopale, per sostenerla in un paese dove la Chiesa non aveva grande credito. Ma già nel 1215 l'Inquisizione si era trasformata in un organo repressivo permanente. Nel 1233 Papa Gregorio IX le conferì poteri illimitati alle dirette dipendenze della Santa Sede, consentendole al contempo di sostituire la giustizia ecclesiastica ordinaria e di sottrarsi al controllo dell'autorità laica. Tali innovazioni ricevettero ben presto anche la solenne approvazione del sovrano Luigi IX. Fu così che il Papa si dotò con piena cognizione di causa di uno strumento di terrore. Lo consegnò nelle mani dell'Ordine dei Frati Predicatori, fondato a Tolosa nel 1215 dallo spagnolo Domenico Guzmán, giunto in Occitania proprio per tentare con scarso successo di combattere il catarismo. Nati dalle crociate, i domenicani erano dei fanatici e se ne gloriavano. Giocando col proprio nome, si definivano essi stessi Dominicanes, i cani del Signore. E proprio dalle loro fila uscì il branco di inquisitori che fu sguinzagliato in lingua d'oca. In seguito, il campo d'azione della macchina inquisitoriale si estese all'intera cristianità latina. Sotto una veste religiosa, perseguì obiettivi d'ordine politico e sociale, schierata in prima fila, ad esempio, nella lotta contro le libertà municipali. Nel XV secolo in Spagna, dove la sua presenza era consistente, l'Inquisizione fornì il maggior sostegno all'assolutismo di volta in volta contro la nobiltà, contro le cortes e contro le popolazioni, per di più con l'espulsione degli ebrei e dei moriscos, contribuì notevolmente alla rovina economica del paese. Creata non solo per estirpare il catarismo, ma anche e soprattutto per polverizzare la resistenza della lingua d'oca contro i conquistatori, l'Inquisizione non lesinò certo sui mezzi. Con la sua scorta di 24 armati, notai e cancellieri, ogni inquisitore era contemporaneamente poliziotto, giudice istruttore, e presidente di tribunale. La procedura inquisitoriale non teneva in nessun conto le garanzie accordate agli accusati dalla giustizia civile e fino ad allora anche da quella ecclesiastica. La difesa venne di fatto annientata, poiché l'avvocato che osava difendere una persona accusata di eresia rischiava egli stesso d'essere incriminato come eretico. Per condannare un imputato era sufficiente raccogliere contro di lui due testimonianze, ma mentre la giustizia civile esigeva testimoni imparziali e di buona reputazione, l'Inquisizione accettava la testimonianza di parenti, domestici e complici. Anche gli eretici venivano accettati come testimoni, ma soltanto per testimonianze a carico, altrimenti venivano dichiarati inattendibili. Gli inquisitori si arrogavano il diritto di modificare le deposizioni nell'interesse della verità. Infine, i testimoni venivano ascoltati a porte chiuse, garantendo loro l'anonimato. Chiunque poteva così essere condannato sulla base di denunce anonime, ispirate dalla vendetta, o estorte con la forza o con l'inganno, senza neppure la possibilità di avere un confronto con il proprio delatore. Dalla giustizia civile dell'epoca, l'Inquisizione non trasse che una sola pratica estranea fino ad allora alla giustizia ecclesiastica, la tortura. E non si limitò a tollerarla, la raccomandava. Così Masini, autore di un manuale pratico ad uso degli inquisitori, consiglia di ottenere le confessioni dell'accusato issandolo con una corda fino al soffitto per poi lasciarlo ricadere al suolo, bruciandogli gli arti dopo averli cosparsi d'olio, schiacciandogli i piedi con una morsa di ferro, maciullandogli le ossa delle dita con delle piccole bacchette in forma di fischietto. Lo stesso autore raccomanda il notaio dovrà trascrivere non soltanto tutte le risposte dell'accusato e tutte le parole che costui pronuncerà sotto tortura, ma anche i suoi sospiri e le sue grida, i suoi gemiti e ogni sua lacrima. Tale sadismo non mancava di ipocrisia. L'Inquisizione trovava eccellente smembrare o cauterizzare le sue vittime, ma si premurava di non farle mai sanguinare, poiché il diritto canonico non permetteva ai religiosi di versare del sangue. Quando, dopo simili trattamenti, l'imputato confessava, le torture venivano interrotte ed egli doveva confermare le sue ammissioni dichiarando che erano state rilasciate liberamente. Se invece approfittava di questa tregua per ritrattare, veniva considerato come relapso, cioè eretico recidivo, e veniva nuovamente torturato. L'inquisitore pronunciava la sentenza da solo, senza il parere dei suoi consiglieri, nient'altro che semplici comparse. L'accusato poteva essere condannato al rogo, al muro, cioè la prigione dell'Inquisizione, alla confisca di tutti i suoi beni che andavano a rimpinguare le casse della Chiesa, o ancora, ed era la pena più lieve, a portare cucita sui vestiti una croce gialla, contrassegno dell'eretico, al quale nessuno avrebbe dovuto prestare aiuto. Se qualcuno avesse osato farlo, per esempio dandogli ospitalità, l'Inquisizione ne avrebbe fatto distruggere la casa, lordata dalla presenza ereticale. Nessuno poteva far appello alle sentenze dell'inquisitore. Lui stesso, in compenso, poteva rivedere le sentenze a suo piacimento. In tal modo, la minaccia di un inasprimento della pena incombeva costantemente su chi era scampato al rogo. Più il tempo passava, più cresceva il numero delle vittime e anche la loro tipologia. Nemmeno i defunti erano al riparo delle smanie inquisitoriali. Se gli inquisitori li sospettavano di aver in vita abbracciato la fede catara, violavano le loro sepolture, esumavano i loro cadaveri e li bruciavano pubblicamente per intimidire le popolazioni attraverso l'orrore. L'odio nei confronti degli inquisitori continuò così a crescere in tutta la lingua d'oca. Quelli venuti dalla Francia erano detestati, ma ancor di più lo erano quelli originari del paese, i fratricidi. L'odio investì rapidamente tutto l'ordine dei Domenicani, da cui provenivano sia gli uni che gli altri. Gli inquisitori non erano invisi soltanto a chi era più o meno legato ai Catari, ma anche a un crescente numero di cattolici, stanchi del regno del terrore. La fe sans obras morta è. La fede senza le opere è una fede morta. Questa massima catara fece scuola anche tra i cattolici. Ora, quello che si rimproverava ai frati predicatori era proprio di dispensare dei gran bei sermoni, ma di non vivere da cristiani. Il popolo li soprannominava i pii monaci, in apparenza un omaggio alla loro pietà, in realtà un feroce gioco di parole. Col loro abito nero e bianco erano come le gazze, al contempo ladri e ciarlatani. Ma non ci si accontentò di canzonarli, la resistenza si tradusse presto in atti. I pauperistici medievali rispecchiano la figura originaria del cristianesimo, nato appunto come setta giudaica egualitaria in un'atmosfera messianica. Gli apostolici di Gherardino Segalello, di Alberto da Cimego e di Dolcino sono pertanto uno dei tanti ritorni apocalittici al cristianesimo puramente evangelico e di conseguenza rappresentano la negazione radicale di tutto quanto la gerarchia ha fatto e stabilito da Papa Silvestro I in poi. Gli apostolici rappresentano altresì la volontà di ristabilire quell'agitazione mistica e ascetica che, da sempre, ha messo in difficoltà l'imperio papale, minacciando di lacerarlo. La meccanica del fatto eterodosso ha il suo fulcro centrale negli adepti della povertà volontaria, in coloro cioè che professavano la convinzione che per seguire il Cristo povero bisognasse essere poveri. Il problema della povertà è di capitale importanza per comprendere la trasformazione subita dal cristianesimo nel Medioevo. Ma come si diventa eretici? Qual è la linea di demarcazione tra il santo come Francesco e l'eretico come Valdesio da Lione o Gherardino da Uzzano Taro? La discriminante è l'obbedienza alla Chiesa di Roma. Il santo obbedisce, l'eretico no, perché è convinto che occorra obbedire a Dio e non agli uomini. Le strutture ecclesiastiche sono pronte a far propria ogni dottrina e ogni movimento che non la mettano in questione. La povertà volontaria, in quanto scelta individuale nel contesto ecclesiale, è trattata con benevolenza, ma quando assume la forma di fenomeno collettivo diventa pericolosa e costituisce allora eresia. L'ordine, o meglio il movimento degli apostolici, si inserisce nel contesto della crisi dei francescani, divisi sulla questione della povertà volontaria, della testimonianza itinerante, del nomadismo e dell'obbedienza alle gerarchie ecclesiastiche. I francescani spirituali erano convinti che, seguendo l'originario insegnamento di Francesco, avrebbero potuto essere i testimoni, le guide del mondo per quella terza età imminente o addirittura da poco iniziata. Subito dopo la morte di Gioacchino da Fiore, suoi appassionati discepoli ricavarono dall'analisi dei testi biblici profezie su uomini e cose dell'epoca e giunsero a fissare la data del 1260 per l'avvento dell'era dello Spirito Santo. Fu proprio in quell'anno che apparvero i penitenti flagellanti a Perugia e poi nelle Marche e nel Parmense Gherardino Segalello, nativo di Alzano, oggi Ozzano Taro. Costui sembra, dopo aver incontrato dei barba, cioè dei discepoli itineranti di Valdesio, i poveri di Lione, in Italia detti poveri lombardi, si presentò al convento minorita di Parma per essere accettato. Egli era un giovanotto di modesta condizione sociale, illetterato. Benché secondo la regola gli illetterati non devono temere di ricevere l'insegnamento, egli non venne accettato, probabilmente perché nel colloquio manifestò idee radicali: povertà volontaria, apostasia della gerarchia, recupero dello spirito comunitario e fraterno, incompatibili con il modus vivendi conventuale, ma che caratterizzeranno tutta la prassi del Segalello e dei suoi seguaci. L'aspirazione degli apostolici di raggiungere una perfetta povertà produceva grande proselitismo. I francescani conventuali vivevano ben pasciuti nei conventi, sovente in eremi situati nelle proprietà dei potenti, e si dedicavano a una vita di preghiera e contemplazione, mentre gli apostolici non accumulavano nulla, accontentandosi di quanto poteva sfamarli al momento, vivevano di elemosine e, in cambio di quanto ricevevano, assistevano i malati. La vita scarsamente attiva dei minori francescani conferiva forza ai movimenti eterodossi, che si sforzavano di seguire il ideale apostolico. Per provocare i minori, essi si chiamavano ostinatamente minimi. Per essere accettati nella loro comunità, per prima cosa ci si doveva privare di ogni proprietà anche con atti simbolici. I seguaci del Segalello si denudavano dei propri abiti, che venivano mucchiati tutti insieme. Poi essi si ponevano in cerchio, con al centro una donna che ridistribuiva gli abiti come se li desse ai poveri, privati di ogni loro bene. Non si poteva possedere più di una tunica, secondo il dettame evangelico. Gli apostolici non mendicavano, poiché non potevano accettare denaro come dono, ma soltanto elemosine alimentari. I pauperes Christi stavano insieme attorno ai tavoli che erano stati predisposti per loro agli angoli delle strade e si cibavano di quanto era loro offerto, dopodiché se ne andavano senza prendere con sé né cibo né bevande, mostrando nessuna preoccupazione per l'indomani. È ovvio che la gente facesse il confronto con i minori conventuali e che ne traesse le conseguenze. Dolcino era nativo di Prato, allora dipendente del castello di Romagnano Sesia, nel Novarese. Quando era ragazzino fu mandato a Vercelli e allevato nella chiesa di Sant'Agnese, vicino alla Porta del Cervo, dove questo torrente si congiunge con la Sesia, dal prete Augusto, che lo affidò per gli studi al maestro Sion, professore di grammatica. Il ragazzo era infatti di intelligenza assai vivace e divenne in breve un ottimo allievo, ma sotto la sua buona indole, era piccolo di statura, di aspetto piacevole e simpatico a tutti, derubò il suo tutore e poi fuggì lontano, verso i confini d'Italia, a Trento. Fra i monti del Trentino fondò una nuova setta, del tipo dei fraticelli regolari, e andava predicando d'essere il vero apostolo di Dio e che tutto, nell'amore per il prossimo, doveva essere messo in comune, e diceva pure che si poteva amoreggiare con le donne a piacimento, per cui nessun rapporto sessuale era peccato, fatta eccezione per l'incesto. Attorno al 1290 Dolcino conobbe gli apostolici e negli anni di fine secolo egli si reca nel Trentino meridionale, nella valle del Chiese, e precisamente a Cimego, dove opera fra Alberto Fabbro. L'apparizione sicura di Dolcino sulla scena della storia è dell'agosto 1300, un mese dopo il rogo del Segalello, quando egli scrive una lettera ai fedeli, i quali dovevano essere in ambascia per la perdita del loro capo carismatico. Nella prima lettera Dolcino descrive la storia del mondo in quattro scansioni. La prima epoca è quella dei patriarchi, dei profeti e degli altri giusti dell'antico patto. Alla fine di questa prima età i successori deviarono dallo stato spirituale e dal bene dei santi antecessori. All'inizio del secondo periodo è stato raggiunto un grado più alto di santità. Lì è Cristo con i suoi apostoli e discepoli. La seconda età durò sino al tempo di Papa Silvestro e dell'imperatore Costantino. Come era avvenuto per la fine del primo periodo, anche al termine del secondo gli epigoni fuorviarono dalla generazione precedente. Nel terzo periodo, sia i religiosi secolari sia quelli regolari andavano sempre più regredendo. Allora intervennero Francesco e Domenico. La medicina da loro offerta era più potente di quella benedetta, apparsa nel secondo stato, che pur era restrittiva delle cose terrene e separata dal potere temporale. Francesco e Domenico, infatti, ancor più di Benedetto, rinunziarono al possesso dei beni terreni. Tuttavia, anche gli ordini dei frati minori, francescani e predicatori, domenicani, degenerarono. Allora occorreva radicalmente e completamente abbandonare ogni bene terreno e scegliere la povertà. Chi aveva introdotto questa regola di vita pura, autenticamente apostolica, era Gherardino Segalello. Con lui inizia il quarto status, che durerà sino alla fine dei giorni. La differenza tra gli apostolici e i francescani è notevole, perché ai secondi, dice Dolcino, è consentito di possedere molte case, dove raccolgono i frutti delle questue, mentre noi non abbiamo casa né dobbiamo portare con noi le elemosine e per questo la nostra vita è migliore ed è definitiva medicina per tutti. Nel Trentino la situazione nel 1303 diventa sempre più difficile per gli apostolici. Due donne e un uomo sono condannati a rogo. Per sfuggire alla persecuzione, nel 1304 Dolcino e i suoi seguaci lasciano Cimego e passano in Lombardia. Transitano in Val Camonica e da qui nella Bergamasca. Dalla Bergamasca Dolcino con i suoi passò nel Varesotto e da qui a Gattinara alle porte della Valsesia. Dolcino sosteneva che i laici non sono tenuti, né devono farlo, a dare le decime a qualsivoglia sacerdote o prelato della Chiesa di Roma, a meno che non siano di tanta perfezione e povertà quale quella dei primi apostolici. E per questo sostengono che le decime non debbono essere date se non a loro che si dicono apostoli e sono i poveri in Cristo. Anche se ciò non esclude le decime come principio, era comunque evidente che i vescovi di Vercelli e Novara non fossero esempi di tanta perfezione e povertà. Tale assunto non poteva non essere gradito ai valsesiani, i quali avevano contestato per proprio conto decime e balzelli. Dolcino, invece, concorse con la guerriglia confluendovi. L'animò, dandole cioè un'anima, la galvanizzò e la organizzò. Vivere come gli apostoli vuol dire vivere in libertà per liberare, senza alcun vincolo neppure di abitazione. Più del sedentario, il nomade va dove lo porta il vento dello spirito. Non è l'ordine consacrato che conta, ma il merito. I sacerdoti indegni si pongono illegittimamente quali intermediari tra Dio e i fedeli. L'annunzio profetico ha implicazioni sociali, in quanto teso all'avvento del regno che non è passivamente aspettato, ma richiede impegno, credibilità, partecipazione. Occorre collaborare con Dio, che dunque ha bisogno degli uomini. Il messaggio evangelico non va ristretto a un riferimento individuale e interiore. Il suo significato originale è quello di liberazione totale. Dio liberò il popolo dalla cattività egiziana e da quella babilonese. E l'agape ha, appunto, una dimensione sociale. I problemi degli altri hanno la precedenza, poiché ciò che conta non è la mia salvezza, ma il benessere comune. La fine di una società dominata dai malvagi e dai prepotenti e l'inizio dell'era in cui trionferà lo spirito nella giustizia, eguaglianza e libertà. La comunità più impegnata, gli itineranti, avevano dato vita, soprattutto partendo dal Trentino, a una comune del tutto simile a quella descritta per la Chiesa primitiva negli Atti degli Apostoli. In nessuna delle fonti riguardanti il movimento apostolico troviamo la segreta intenzione di arricchirsi a spese delle classi possidenti. Si dice che il segalello gridasse ai passanti: «Andate anche voi nella mia vigna!». Quelli che venivano dalla montagna e non lo conoscevano entravano nella vigna e mangiavano l'uva, convinti di essere autorizzati dal legittimo proprietario. Era una provocazione tesa a dimostrare la possibilità della comunione dei beni o l'impossibilità della proprietà privata. In tutti i movimenti ereticati, nel senso che sono stati ereticati, la donna aveva un'importanza enorme. La donna era equiparata all'uomo, predicava, guidava. La figura di Margherita è una figura fantastica. A parte la bellezza, la memoria popolare la fa bellissima in tutti i sensi. Nella storia e nella fantasia popolare viene sempre descritta come una che marcia avanti, prima ancora di Dolcino, la prima ad avanzare, a dare l'esempio, anche nella fermezza con cui affrontò il supplizio. È la donna della montagna, quella che dà la vita, che mantiene la vita, che mantiene il fuoco acceso, che sa curare la persona anziana, che cura il ferito, è il fondamento della comunità. Con la caduta degli apostolici possiamo dire che la civiltà alpina comincia a decrescere. Da allora inizia a imporsi la cultura metropolitana della pianura. Con la presa di Dolcino, cosa resterà alla donna e alla comunità alpina? Il sole gliel'han portato via. Resterà la notte, il buio, il bosco, la foresta, la strega. La donna diventa strega, quella che conserva ancora il vecchio sapere, le vecchie conoscenze e sarà streghizzata. In Val Camonica, alla fine del XVI secolo, c'erano 5.000 inquisiti per stregoneria. Vuol dire in pratica uno per famiglia, non solo donne, perché hanno streghizzato anche gli uomini, ma la donna soprattutto. Fu una guerra contadina con un bersaglio ben preciso, la donna, perché colpendo lì si colpiva il nucleo familiare, si colpiva la resistenza, si colpiva il diverso. Gli inquisitori vorrebbero scandalizzarci riportando che Fra Dolcino sosteneva che si può pregare Dio in un bosco o in un porcile, meglio che in una chiesa, ma per noi è una cosa bellissima, è un recupero dell'elemento naturale, il bosco. Le colonne diventano gli alberi, la chiesa non ha più un soffitto, l'unico tetto che vale è il cielo. Nella montagna che cerca il riscatto, che non vuole morire, si trova l'anima autentica di Dolcino. Ora il vero evangelico rivendicava questa testimonianza, questa, se vogliamo,